Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica con l'ouverture da Don Giovanni di Mozart. Iniziamo il nostro incontro di oggi. Buongiorno e buon pomeriggio a Massimo Orlandi. Buon pomeriggio. Massimo Orlandi, amministratore delegato di Sorgenia, il primo operatore privato italiano nel mercato dell'energia elettrica. Iniziamo da Don Giovanni di Mozart. Perché le piace Mozart? È stata la prima opera che ho imparato a conoscere. Mi sono forzato a 18 anni perché non capivo come mai la lirica che vedevo era la musica popolare dei miei nonni, era diventata poco popolare, al mio orecchio sembrava anche abbastanza artefatta, difficile da ascoltare. E quindi mi sono fatto regalare per il 200° compleanno il Don Giovanni. E da allora è partita una passione che tuttora quindi dura sull'opera in generale, sul Don Giovanni, e su Don Giovanni e Mozart in particolare. Mozart è un grande musicista, un po' laico, un po' religioso, un grande musicista austriaco, Salisburgo, e quindi anche l'Austria poi professionalmente l'ha incontrata. Eh sì, perché gli azionisti di minoranza della mia società sono Verbund, che è una più grande azienda elettrica austriaca, ex monopolista diciamo in Austria. E devo dire che si è aggiunto piacere a un lavoro che è stato comunque molto divertente, perché ovviamente molto spesso loro mi invitano a Salisburgo a sentire Mozart. Beh, questo è indubbiamente molto bello, forse era un po' la preveggenza questa passione per Mozart a 18 anni in cui lei ha scelto poi di fare ingegneria chimica. Come mai questa scelta da giovane? Le scelte universitarie a quell'età sono così quasi casuali, in realtà avevo deciso sicuramente di fare ingegneria, poi ho preferito fare ingegneria chimica perché mi sembrava uno dei settori allora di maggior interesse per me. Poi la vita è piena di sorprese, dopo 5 anni in cui ho fatto davvero l'ingegnere chimico e invece mi è capitata un'opportunità di iniziare a lavorare nell'energia, e quindi la mia carriera è quasi tutta energetica. Quindi ha iniziato nell'energia e poi a un certo punto, quando nel 1999 si è liberalizzato il mercato dell'energia, le è toccato fare anche l'imprenditore. Sì, perché per fortuna i miei attuali azionisti, in particolare il gruppo CIR della famiglia De Benedetti, hanno sempre avuto questa cultura, secondo me molto interessante, che funziona bene, di cercarsi dei manager per le loro attività che però avessero il coraggio, la tendenza, la cultura, i cromosomi per sfidarsi come degli imprenditori. Quindi io ho lasciato Edison, che era la più importante azienda privata energetica in Italia, dove mi trovavo fra l'altro molto bene, per far nascere da zero questa realtà che si chiamava allora Energia, oggi Sorgenia, con una sfida che è stata veramente imprenditoriale, perché ho lasciato una parte dello stipendio che avevo prima, ho preso la mia liquidazione, ho investito tutto in questa società e ho fatto la scelta economico-finanziaria, devo dire soprattutto professionale e umana, più bella della mia vita. Cioè, ha investito su se stesso, in pratica. Su me stesso e soprattutto su un gruppo di persone che poi con Karma abbiamo fatto arrivare in azienda, hanno realizzato questa bellissima esperienza con me, e devo dire abbiamo investito sì su questo, se vuole a quella data, sulla mia e mie attitudini, nel mio coraggio, ma soprattutto poi abbiamo fatto tante cose con una squadra che reputo ancora oggi veramente eccezionale. Quindi una startup del 1999 che è diventata un'azienda appunto con 500.000 clienti adesso. Come mai è cambiato il nome? Energia era un nome troppo generico. Chi ha voluto cambiarlo in Sorgenia? Come è nato Sorgenia? Guardi, questa è una storia interessante, perché tutto nasce da una classica riflessione agostana sulla strategia della società, perché ero convinto di aver fatto già molto dal punto di vista della possibilità di fare investimenti, soprattutto nel settore della produzione di elettricità convenzionale, anche se con tecnologie molto moderne, decisamente rispettose dell'ambiente, o comunque decisamente più rispettose dell'ambiente che le passate. E poi ci siamo resi conto che mi sembrava normale, se non dire che fossimo già arrivati un po' a fine corsa, però effettivamente quello che si poteva fare in quell'ambito era stato fatto già in gran parte, o comunque era già avviato tranquillamente. E quindi in quel momento, anche visto le difficoltà che abbiamo avuto nel convincere per esempio i territori e le popolazioni a accettare questo tipo di investimenti, come una centrale per esempio a ciclo combinato, abbiamo visto salire sempre di più questa passione per l'ambiente, la sensibilità dei cittadini, certo, sulle questioni ambientali e quindi anche energetiche. Noi ci siamo detti, visto che siamo nuovi, abbiamo impianti nuovissimi, con tecnologie molto molto più performanti dal punto di vista ambientale che in passato, e visto che tutti gli altri nostri competitori, secondo noi, faranno fatica a dipingersi come ambientalisti verdi e attenti a coniugare l'energia e l'ambiente, siamo partiti con questa sfida. Quindi abbiamo iniziato prima di tutto a investire nelle rinnovabili, cosa che prima non avevamo ancora fatto. E poi ci è venuta anche l'idea di conquistare questo territorio, diciamo, di comunicazione di un'energia sensibile, che è il nostro slogan, certo, un'energia sensibile, vicina alle esigenze delle persone e soprattutto dell'ambiente. Quindi non è solo un'etichetta quella dell'energia rinnovabile, dell'attenzione all'ambiente. No, anzi, devo dire che il marchio nasce dopo la decisione strategica di cominciare a fare delle attività rilevanti, importanti nel mondo dell'energia verde, della green economy. E quindi poi il marchio è stata una scelta quasi successiva. Energia era un bellissimo marchio, fra l'altro eravamo affezionatissimi, con un logo allora molto bello, però ha un grosso difetto: non è memorabile, soprattutto in radio. Lei immagini fare una pubblicità in radio che dice che Energia vende energia elettrica, gas, non si capisce chi è chi vende. Grazie mille per l'attenzione alla radio. Quindi è importantissima. Questo sicuramente. Ecco, allora, una società che produce energia, che vende energia, che è attenta all'ambiente nella produzione, che cerca di sollecitare anche l'attenzione dei consumatori in questa prospettiva. Ma il consumatore riesce a sapere da dove viene l'energia che consuma? In alcuni casi addirittura noi lo facciamo, riusciamo a garantire la provenienza dell'energia che vendiamo loro. Esistono i sistemi di certificazione internazionale che garantiscono, per esempio, che Sorgenia produce, noi abbiamo scelto solo di produrre, non di comprare energia targata verde, ma prodotta verde, quindi rinnovabile pura, e per quel quantitativo noi siamo in condizione di soddisfare le esigenze di alcuni clienti che vogliono avere un'energia vera, pura, per questioni di, a volte semplicemente di cultura, altre spesso di marketing. Ci sono delle aziende che vogliono dimostrare di essere particolarmente attente all'ambiente e verdi, e quindi ci chiedono questi prodotti. Quindi è possibile, ovviamente bisogna aggiungere un po' di lavoro, bisogna farsi certificare da società qualificate che garantiscano che i kilowattora verdi prodotti siano venduti a quelle aziende e non di più, ovviamente. Ecco, i consumatori quindi sono attenti sotto questo profilo, sono attenti soprattutto in una fase come questa anche all'aspetto economico dell'energia. Come giudica l'atteggiamento appunto dei consumatori e cosa vi chiedono dal punto di vista del possibili risparmi in un'energia che in Italia costa sicuramente più cara che negli altri paesi? Ma guardi, da tanto tempo noi cerchiamo di far risparmiare al consumatore e al cliente finale, diciamo, in bolletta, ma lo facciamo più che promettendo un risparmio sul prezzo, lo stiamo facendo cercando di dare a loro strumenti per risparmiare sul consumo. I prezzi dell'energia elettrica, un po' come quelli, diciamo, di altri combustibili o carburanti, sono molto difficili da confrontare. Quelli dell'energia elettrica sono davvero complessi, come quelli del gas. Allora, devo dire che il cliente fa sempre fatica a capire se passando da un fornitore a un altro poi davvero risparmia o paga il kilowattora meno dell'altro. Quello che invece si può fare, noi stiamo facendo ormai a tappeto anche per i clienti residenziali, quindi per le famiglie, è dare loro degli strumenti, spesso sono dei veri e propri dispositivi che dei permettono, piccoli computer in pratica, o dei piccoli computer, oppure dei dispositivi che permettono fisicamente di consumare meno. Nelle case, una famiglia normale italiana che consuma circa 3.000 kWh all'anno, si riesce a risparmiare più di 250 kWh, che è quasi il 10%, semplicemente usando dispositivi che spengano, per esempio, tutte le lucine che rimangono accese, i televisori, i videoregistratori, computer, in alcune case più alto consumanti addirittura di più. Ecco, questa è una cosa importante, perché alla fine per il cliente quello che conta è spendere meno, certo, in euro mese meno, euro anno meno. E se lo fa, fra l'altro, vedendo e consumando meno, è una prova inequivocabile. Ma non è perché che spende di più per consumare meno? No, perché comunque, al di là di qual è il prezzo di quei 250 kWh, per esempio, che possiamo far risparmiare usando questi apparecchi, quelli che costino 100 euro a megawattora o 150 euro a megawattora sono comunque risparmiati. Quello che volevo dire è che è un servizio questo che voi date, la facendolo pagare o gratuitamente? Di solito lo proponiamo chiedendo loro di allungare i termini del contratto a 2 anni, per esempio, invece che la classica durata annuale. E abbiamo avuto delle ottime risposte. Molti clienti hanno scelto questi prodotti, sono molto soddisfatti. Fra l'altro ci chiamano per dire come sta andando, perché a volte hanno bisogno di, ovviamente, un aiuto nell'uso, e ovviamente ci siamo organizzati per spiegarglielo, ma i ritorni sono stati molto positivi. È interessante perché questo lato della cultura di sensibilità verso l'ambiente che riguarda il risparmio sta tornando in essere. Io ricordo da un ragazzino, a casa nostra mio papà, le luci andavano spente sempre. Sì, sì, era una logica forse un po' diversa, che abbiamo un po' perso forse questa logica, però diceva che ci sono i clienti appunto che non sono pigri di fronte all'apertura del mercato dell'elettricità, uno abituato ad avere un fornitore, va avanti con quello, ecco, invece il mercato è un mercato dinamico che si muove, anche se è difficile generalizzare. Che consigli può dare adesso a chi ci ascolta, di là appunto delle vicende societarie, proprio per essere più attenti alla razionalità nel consumo dell'energia? Ma credo che il suggerimento più utile che si possa dare è proprio quello di convincersi che c'è un mercato, che ci sono tanti operatori che fanno proposte molto diverse, ma molto interessanti, e che nel cambiare, prima di tutto non si perde nulla, nel senso che la qualità del servizio è la stessa, perché tutta la rete fisica non cambia, tutti gli operatori pagano l'oceano di distribuzione per dare lo stesso servizio. Quindi che un cliente che sia a Milano piuttosto che a Roma sia fornito da Sorgenia piuttosto che da un altro operatore, la qualità fisica della fornitura è identica. È solo una questione di servizi e prezzo. Nei servizi noi, per esempio, stiamo lavorando molto sul lato dell'efficienza energetica, perché secondo noi poi l'elemento di risparmio è più importante. E poi ovviamente ci sono delle scelte anche un po' di affinità, perché alcuni clienti scelgono noi, ce lo dicono molto esplicitamente, ce lo dicono anche tutti i sondaggi che facciamo sulla percezione del nostro marchio. Sanno che siamo una società che si è battuta sempre per un certo tipo di energia, molto vicina all'ambiente e molto vicina all'uomo, poi, di fatto, e molti ci scelgono per questo. Quindi comunque, qualunque sia le proprie aspirazioni, il proprio interesse, qualcuno può essere anche semplicemente e soltanto motivare una riduzione del prezzo. Cercare fra le offerte che ci sono disponibili e sentire più fornitori è la cosa più utile da fare. Ecco, ma come capire se qualche offerta di contratti, ogni tanto arrivano telefonate appunto di offerte di contratti, come capire se queste offerte sono serie oppure se nascondono qualche trappola? Ci sono delle certificazioni di qualità, delle garanzie che le società danno sul fronte appunto della qualità del servizio e dell'affidabilità? Sì, assolutamente sì, e soprattutto le fatture che facciamo e che l'autorità per l'energia elettrica e il gas definisce come devono essere fatte hanno tutte le informazioni fino all'ultima virgola possibile e necessaria. Io dico addirittura fin troppe, nel senso che poi noi dal punto di vista del servizio ci sforziamo di mettere in evidenza i parametri più importanti, che è poi il costo unitario del kilowattora, il consumo che ha avuto, ma dietro c'è un dettaglio pazzesco. Adesso, se uno ha cultura, conoscenza e vuole studiarsi tutto, si può studiare tutto fino all'ultima componente del prezzo del kilowattora, che l'assicuro sono tanti, sono 3 pagine di fattura normalmente. Certo, forse però, anche un po' troppo complicato. Anche troppo, però la prima noi abbiamo cercato di semplificarla. Sulla prima le informazioni immediate, direttamente comparabili, esistono, e fra l'altro esiste sempre anche una comparazione con il prezzo che tipicamente viene fatto ai clienti che per qualche motivo non hanno ancora scelto il mercato libero. Incontri. A ancora con le vivaci note del Don Giovanni di Mauss, riprendiamo il nostro incontro con Massimo Orlandi, amministratore delegato di Sorgenia, una delle maggiori società produttrici e distributrici di energia elettrica e di gas in Italia. Abbiamo parlato nella prima parte delle possibilità anche per le famiglie di risparmiare grazie all'apertura del mercato, alle liberalizzazioni che ci sono state dal 1999 in poi. Sorgenia è nata proprio nel 1999, Sorgenia è una società del gruppo CIR, lo ricordiamo. E allora abbiamo parlato appunto di queste nuove possibilità, di queste nuove opportunità e anche di qualche insidia che c'è nei nuovi contratti. In questo senso chiedevo all'ingegnere Orlandi come possono fare le famiglie per essere garantite di fronte a delle clausole che molto spesso nei contratti purtroppo sono anche scritte magari un po' in piccolo o dei particolari. Ecco, ci sono delle garanzie formali che voi magari anche con altre imprese avete promesso di avere? Ma prima di tutto siamo stati i primi sul mercato dell'energia elettrica, in questo caso, a fare un manuale del consumatore, quindi per spiegare in maniera divulgativa e facile al consumatore proprio come leggere le bollette, che diritti hanno, come si devono comportare in caso di sguidi o di disservizi. E questo fra l'altro è stato un lavoro fatto noi per primi con un supporto importante anche dell'autorità antitrust, che è sempre stata molto attenta a queste tematiche. Più recentemente abbiamo addirittura siglato, anzi concepito e poi messo in atto un protocollo di autoregolamentazione insieme al nostro competitore che è Edison, su un terreno che è particolarmente critico, lo è sempre stato in tutte le aperture dei mercati, che è quello dei contratti non richiesti. Purtroppo ci sono stati dei casi importanti che hanno attraversato tutto il settore, di qualche agente, spesso truffaldino, qualche volta veramente in malafede, che hanno tentato poi di far attivare i contratti anche se non lecitamente richiesti e lecitamente sottoscritti. Questo è un tema molto importante, è un tema certo. Anche sotto le lenti di ingrandimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, e anche qui siamo stati i primi, questa volta insieme a Edison, a darci un metodo tutto nostro per verificare che questo non accada. In sintesi, molto semplicemente, noi prima di attivare qualunque cliente lo richiamiamo e gli chiediamo bene, esplicitamente, di raccontarci che promessa ha avuto sulle condizioni, perché è importantissimo che il cliente scelga con coscienza sulla base di informazioni corrette. Per noi preferiamo rinunciare a una fornitura ad un cliente che non ha capito bene cosa sta facendo e perché ha scelto noi. Questo è stato un lavoro molto grosso e fra l'altro nei primi di marzo, il 7 di marzo, presenteremo ufficialmente in un convegno a Roma con l'autorità per l'energia elettrica e il gas e l'antitrust. Questo è un protocollo di intesa, di una carta di garanzia, una carta di qualità. È una carta di qualità dei servizi più un codice di comportamento delle aziende che tende a rendere esplicito il fatto che c'è un controllo molto forte, molto serrato sulla qualità della stipula del contratto. Spesso vengono fatti a telefono oppure con contatti diretti, quindi per noi è estremamente rilevante essere tranquilli che il consumatore abbia scelto noi per davvero in piena libertà e senza condizionamenti. Ecco, il consumatore adesso può scegliere a quale gestore appunto attaccarsi per l'energia elettrica, per avere il gas. Sono stati 14 anni di liberalizzazione del mercato elettrico, però il consumatore dice sì, però il prezzo poi non è diminuito poi tanto. Quindi qual è il bilancio che lei, da amministratore delegato di Sorgenia, può fare di queste liberalizzazioni? Guardi, innanzitutto queste liberalizzazioni hanno portato due benefici enormi che adesso non vediamo perché per fortuna ci manca la prova la controprova. Certo. I temi sono due. Vi ricordo che nel 2003 l'Italia ha rischiato seriamente di rimanere al buio. Al di là dell'incidente del certo. Pino svizzero, che una notte di settembre ha fatto venir meno l'alimentazione dell'elettricità a tutta Italia per parecchie ore, ma a giugno, che è stato un momento di massima crisi, l'Italia ha rischiato davvero di rimanere al buio per mancanza di impianti, di capacità, di centrali. Quindi il primo effetto positivo è che questa liberalizzazione ha prodotto una quantità di investimenti privati per 25 miliardi di euro in meno di 10 anni, che hanno aggiunto la capacità che non avevamo e ammodernato in maniera veramente sostanziale la vecchia. Quindi abbiamo un parco capace, quindi non fa più rischiare il blackout, ma soprattutto con performance di ambientali nettamente migliori di quelle di prima, non solo per le emissioni, ma anche per minore consumo di combustibile, perché le tecnologie più recenti, in particolare il ciclo combinato, alimentato a gas, addirittura raggiunge rendimenti che sono una volta e mezzo quelli che avevamo prima, quindi consumiamo molto meno combustibile, che è sempre un elemento positivo sia per, dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale. Il secondo elemento è il prezzo, perché se avessimo mantenuto quegli impianti vecchi alimentati ad olio a basso rendimento, avremmo avuto non solo un tema di emissioni, ma soprattutto un costo che è altissimo. Oggi, per farle un caso concreto, in Sicilia, dove purtroppo il sistema di elettrodotti non permette di far comunicare il mercato e le capacità elettriche del continente con quelle siciliane, il prezzo in Sicilia oggi è fatto da dei vecchi impianti come quelli che avremmo avuto se non avessimo fatto questi investimenti, e pur essendo già il prezzo dell'Italia più alto del resto d'Europa, ma lì in Sicilia di 20 euro a megawattora più alto che il resto d'Italia, dicendo 20 euro sopra 65. Quindi sarebbe stato un aggravio enorme, noi avremmo una bolletta ancora più cara. Come si fa a far scendere per le aziende, per le famiglie, il costo del kilowattora? Un elemento fondamentale è quello di far riprendere il piglio giusto al mercato del gas, alla liberalizzazione del mercato del gas. L'Italia produce kilowattora soprattutto bruciando gas. Se il prezzo del gas rimane alto, il kilowattora costerà tanto. Ecco, ma l'Italia può diventare anche un paese esportatore, si può realizzare veramente un mercato europeo dell'energia? L'Italia è un paese solo importatore finora. Io penso di sì, e soprattutto credo che l'Italia in questo momento abbia il parco di produzione elettrica più adeguato alle scelte che l'Europa ha fatto e sta facendo. L'Europa, con la direttiva 20-20-20, ci sta chiedendo di ridurre in un certo periodo del 20% i consumi, del 20% le emissioni di CO2 e di produrre almeno il 20% dell'energia primaria consumata da fonti rinnovabili. Quindi si sta spostando verso le fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili hanno grandissimi pregi, non emettono, hanno qualche difetto, sono ancora costose, e qui però l'Europa e il paese, anche l'Italia, hanno deciso di sopportare questo prezzo che comunque finisce in bolletta, ma soprattutto hanno un brutto vizio: non sono programmabili, non si sa quando sono disponibili o se lo sono comunque. Quando come splende il sole, quando soffia il vento. Insomma. Esatto, appunto, quando poi il sole comunque la sera, cioè, certo, il tramonto c'è tutti i giorni. Quindi. Certo. Questo quindi richiede che a fianco a queste grosse produzioni rinnovabili ci siano degli impianti convenzionali, meglio se moderni come cicli combinati, che quando il sole tramonta sostituiscono la produzione del sole dell'ora di pranzo, e soprattutto quando il vento, piuttosto che mancanza di sole, richiedono integrazioni o delle diminuzioni del carico, riescono a seguirlo. Questa flessibilità sta diventando sempre più importante, e quindi, visto che l'Europa sta andando lì, la Germania ha anticipato tutti, ha una produzione rinnovabile, certo, enorme, la più grossa in termini relativi tra i paesi grandi consumatori, e loro hanno un problema sempre più grosso di far convivere, diciamo, queste nuove produzioni non programmabili, un po' casuali nella disponibilità, con un parco centrale che fra l'altro il loro è principalmente a carbone ed è poco flessibile. Noi possiamo esportare sia questa flessibilità che diventa sempre più preziosa, che i kilowattora che con i nostri impianti, che sono veramente molto efficienti, possiamo produrre. Ecco, ci stiamo avviando un po' alla conclusione, ma vorrei fare un paio di domande rapide proprio sul tema dell'elettricità. Che cosa pensa dell'auto elettrica? Guido un'auto elettrica da più di un anno e mezzo tutti i giorni. Ho un percorso cittadino, faccio una trentina di chilometri al giorno tra casa e l'ufficio, ed è un'esperienza eccezionale. È una macchina comodissima alla guida. Che costano ancora più care, però, e quello che si risparmia forse sui consumi si paga molto all'inizio. In questo momento il costo per chilometro è un quarto o un quinto rispetto a un'automobile a gasolio, addirittura a gasolio o benzina. Così. Ma è molto divertente la guida, è una guida semplice, simpatica, perché è una bella coppia, un motore brillante, e devo dire sono stati fatti dei passi da giganti, ma se ne faranno altri per aumentarne l'autonomia. Quindi oggi in città sì, fuori dalla città no. Quindi avrà un futuro l'auto elettrica come fonte alternativa di trasporto, mezzo di trasporto, soprattutto forse anche per i mezzi pubblici? Secondo me sì, nel traffico cittadino assolutamente sì. La qualità della vita in una città che abbia una prevalenza di auto elettriche invece che a combustibili liquidi aumenterebbe veramente tanto. Un'ultima domanda, dato la situazione in cui, economica in cui siamo, c'è qualche segnale di ripresa in questa economia italiana? Guardi, da giudicare dai consumi elettrici le devo dire di no, però qualcosa sta capitando, qualcosa è successo, qualche segnale veramente negli ultimi mesi di piccola ripresa. Ma non mi azzardo, diciamo, nemmeno a chiamarla di ripresa della, di fine della caduta almeno. Però qualcosina sta capitando anche specificamente nel nostro settore, quindi un po' di ottimismo per il futuro possiamo tutti mantenerlo. Sì, dobbiamo. Grazie a Massimo Orlandi, amministratore delegato di Sorgenia, che è stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. grazie ancora, buona domenica.